vinto contro il vento della crisi. Spettina i capelli oppure lasciare i visi. Vedo la legami che ora sono divisi. Chiusi si continua con gli occhi intrisi. Decisi, convinti non sarà più come prima. Il mio stato d'animo ora forgia la rima. Sembra fantomato dallo scoppio di una mina. Sembra lavorato nella peggiore officina. Vicina alla gente che amo veramente. Per niente decisa a sentirsi perdente. Tutto ciò che ho lo condivido certamente. Con chi mi vuole bene in questa merda di presente. Cosciente, non si può restare fermi a attendere. Dalla carrozza in corso ora mi tocca scendere. Raccolgo tutte quante le energie da spendere. Rifiuterò anche questa volta verba a rendere. Faccio una giornata splendida. La mia vita è in vendita. E io non cambio identità. Mentre tu provi a spegnerla. Mai, mai, mai. Questo vento ci fermerà. Mai, mai, mai. Le fondamenta qua purtroppo non resistono più. Tutto ciò che ho costruito rischia di andare giù. Le cose non funzionano come vorresti tu. Le mie mani con il giorno salgo sempre di più. Mi ritrovo senza quello che si dice nobility. Sembra che stai bene perché te ne sono i lividi. Fumo mi stai nel bentorno che ne sono i limiti. Non ringrazio più nessuno quando arriva venerdì. Vittima di guerra colpite da entrambi i lati. Qua mi usano tutti, baby, pure i sindacati. Potesse tipo Gandhi, ci hanno ormai stancati. Tira sul cappuccio che affrontiamo per blindati. Presente di merda, futuro marrone. Campo col colore di chi raccoglieva cotone. Mi hanno messo altro dentro questa situazione. Cassa ancora non da morto ma di integrazione. Oggi è una giornata splendida. La mia vita è in vendita. E io non cambio identità. Mentre tu provi a spegnerla. Mai, mai. Questo vento ci fermerà. Mai, mai, mai. Oggi è una giornata splendida. La mia vita è in vendita. E io non cambio identità. Mentre tu provi a spegnerla. Mai, mai. Questo vento ci fermerà. 33 anni come Cristo ma una merda di Pasqua. Se muore non risorgere si steso e basta. Conta i denari che ti piovono in tasca. Dopo avermi rinnegato 3 volte alla vista. Non riesci ad affrontarmi e te la fai sotto. Con le chiappe lucidate da un inutile pulotto. Ma con la chioma rossa la domenica remessa. La merda resterà sempre la stessa. Bene me ne vado, è finita la festa. Lascio il cocciottere tutto quello che resta. Ciò che funzionava mai adesso si è rotto. Riparatevelo voi, per me non c'è più posto. Una buona doccia fredda che comunque tonifica. Situazione poco facile che adesso si intensifica. Stavolta senza meriti, scalo la classifica. Sul numero ma giudice ha problemi in matematica. Oggi è una giornata splendida. La mia vita è in vendita. E io non cambio identità. Mentre tu provi a spegnere.